Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parleremo di storie, partiremo anche da figure piuttosto remote, però vedrete che la storia passata ci porta rapidamente e facilmente a occuparci del presente. Il primo personaggio che vi propongo è uno di quelli che hanno veramente, e lo si può dire a ragion veduta, cambiato la storia e soprattutto dato una svolta in una direzione che ha contribuito a fare il mondo così come lo conosciamo e come viviamo oggi. Il personaggio è l'imperatore Costantino e la scelta alla quale mi riferivo naturalmente è quella di convertire se stesso e tutto l'impero romano al cristianesimo. L'autore del libro che vi propongo è uno storico francese tra i maggiori storici viventi, considerato forse il più importante studioso sull'antica Roma, Paul Vein, che ha pubblicato con Garzanti Quando l'Europa è diventata cristiana, 312-394, Costantino, la conversione, l'impero, e tradotto il libro da Emanuele Lana, 206 pagine, 23 euro. Paul Vein non è certo di impronta cristiana, anzi è un ex marxista, un nicciano si considera, ma non ha dubbi nell'indicare nella decisione di Costantino di convertirsi appunto al cristianesimo prima della battaglia di Ponte Milvio, in seguito al famoso sogno che è stato anche rappresentato in tantissimi quadri e cicli pittorici a partire da quello famoso di Piero della Francesca. Nella decisione di Costantino, dicevo, Vein riconosce la svolta decisiva per la storia mondiale. Vein spiega perché Costantino si decise a convertirsi. Non lo fece per superstizione, perché considerasse il dio dei cristiani più potente degli dei pagani, non lo fece per interesse, non lo fece per una scelta ideologica, ma perché ci credeva veramente. Scrive Vein, Costantino si è convertito perché ha creduto in Dio e nella redenzione. E in questo senso è possibile un parallelo abbastanza ardito che Vein fa quasi con divertimento fra Costantino, Lenin e la rivoluzione comunista. Anche Lenin e Trotsky, scrive infatti Vein, si sono potuti ritenere gli strumenti del cambiamento decisivo della storia universale. Guidato dal partito, il proletariato, classe universale, aveva cominciato a liberarsi concretamente dalla sua oppressione, dialetticamente condannati in anticipo, liberando così anche l'umanità intera dal suo pesante passato. Restava da fondare effettivamente il comunismo. All'epoca di Costantino, prosegue Vein, i cristiani ritenevano che l'incarnazione dividesse in due la storia dell'umanità. Quindi, come vedete, una visione millenaristica che ritorna in questi due eventi, la conversione di Costantino e la rivoluzione comunista. Ma sentiamo su questo e su altro l'autore. Buongiorno a Paul Vein. Buongiorno signore, caro amico italiano. Professor Vein, nel suo libro lei sottolinea l'importanza storica di Costantino, anzi dice che Costantino ha giocato il ruolo più importante nella storia dell'umanità dopo Adamo ed Eva. In che senso? Lo diceva Costantino stesso. Sono l'uomo il più importante dopo Adamo e Eva. Lo diceva. Ma una cosa mi pare essere sicura, se Costantino si sarebbe convertito, il cristianesimo sarebbe restato una piccola setta di avanguardi. E quindi la storia dell'umanità sarebbe stata completamente diversa. La storia dei cristiani, il titolo francese era Quando il nostro mondo è diventato cristiano. Lei ha scritto in italiano Quando l'Europa è diventata cristiana, ma è diventata cristiana e adesso non è più molto. Infatti lei conclude il suo libro parlando della questione che appassiona molto sulle radici cristiane dell'Europa. Ma non sono morte queste radici, non esistono più, soltanto per il 5 o 10% della popolazione cattolica. E questo non è in contraddizione con l'importanza che nel suo libro sottolinea della Chiesa, della cristianità nella storia appunto dell'Europa? Era così fino alle luci, Settecento. All'illuminismo. All'illuminismo, fino al Settecento, sì. Ma adesso anche gli sposi cristiani, quanti figli hanno? 2, 3 soltanto. Quindi queste radici sono state recise nel corso degli anni. Sì, Ma una cosa rimane, il patrimonio soprattutto artistico, dove l'Italia ha la prima parte. Senta, lei nel suo libro affronta anche il tema del rapporto tra la Chiesa e il sovrano, tra Dio e Cesare, e spiega che è stato Costantino a volere la separazione in qualche modo della Chiesa dallo Stato. No, Costantino si è convertito al titolo personale, non ha voluto, non ha tentato di cambiare la sua popolazione, dove soltanto 5% per cento era cristiano. Costantino personalmente era cristiano, ma soltanto lui. L'impero nel secolo di Costantino è doppio, è insieme cristiano con l'imperatore e pagano con le istituzioni. Per esempio le monete rimangono con leggende pagane. Quindi il rapporto tra Stato e Chiesa ha avuto una svolta dopo questa decisione di Costantino? Ha avuto una svolta. Costantino era il signore, il capo della Chiesa, era il presidente. Mm-hmm. Roma dopo Costantino e soprattutto nei secoli 6-7 ha voluto, e soprattutto nel Medioevo di Innocente III, ha voluto avere il potere sullo Stato, ma è un fenomeno tardivo, medioevale. Quindi lui è stato il primo imperatore che ha voluto affermare il potere anche dell'autorità civile sull'autorità religiosa. Sicuramente era molto fiero e molto orgoglioso e si considerava come il presidente della Chiesa. Benissimo, grazie a Paul Vein, autore di Quando l'Europa è diventata cristiana. Tra l'altro Paul Vein ricorda che la conversione di Costantino non fu resa obbligatoria per tutti. Costantino a modo suo fu tollerante, nel senso che ridicolizzò in qualche misura la religione pagana e chi continuava a crederci, però non volle imporre con la forza il cristianesimo ai pagani. Chi invece volle tornare indietro, almeno ci provò una cinquantina d'anni dopo, fu un nipote di Costantino, Giuliano, che appunto avrebbe cercato di ripristinare il culto degli dei, e per questo è passato alla storia col nome di apostata, che per la verità non rende merito ai meriti intellettuali di questo imperatore morto appena 32enne, che ebbe il culto più che della religione pagana, della classicità e della sua cultura. Lo testimonia questo breve scritto che adesso vi propongo, dello stesso Giuliano, curiosamente intitolato L'odiatore della barba, pubblicato da Archinto, 106 pagine, 10 euro, curato da Nicola Montenz. È un breve saggio questo, anzi a modo suo una satira, illuminante per conoscere il clima intellettuale della tarda classicità. Qui siamo nel 362, quindi pochi mesi prima della morte in battaglia di Giuliano l'Apostata. L'imperatore è arrivato ad Antiochia e deve subire lo scherno, la diffidenza e anzi l'aperta ostilità di quella città e dei suoi abitanti, ai quali proprio non vanno giù alcuni elementi del governo di Giuliano l'Apostata, tipo l'austerità dei costumi e alcune strane abitudini come quella di pretendere che si smetta di rubare a man bassa, che si rispettino i poveri o semplicemente che si porti la barba, visto che ad Antiochia la ricerca di una smagliante forma fisica induceva gli abitanti a depilarsi diligentemente tutto il corpo. Spingendoci ancora un po' più in là, si giunge alla fine dell'impero romano, che è ricostruita nel libro di Brian Ward Perkins, La caduta di Roma e la fine della civiltà, è pubblicato dalla Terza, 294 pagine, 19,50 euro, tradotto da Mario Carpitella. L'autore è uno storico britannico che conosce bene Roma perché ci ha studiato, ma soprattutto perché c'è nato, e vuole con questo libro smontare una tesi che si è diffusa negli ultimi 30 anni, secondo la quale non ci fu un crollo dell'impero romano, non ci fu lo sfacelo di una civiltà provocata dalle invasioni barbariche. Secondo questa scuola di pensiero non si deve più parlare di crisi, ma di transizione, mutamento, trasformazione. Spiega infatti l'autore: l'immagine è quella di un organismo vitale che si evolve per affrontare nuove situazioni, una cosa assai diversa dalla visione tradizionale, per la quale una catastrofe distrusse il magnifico dinosauro romano. lasciando in vita qualche minuscolo mammifero da età buia, destinato nei secoli successivi a evolversi lentissimamente nelle creature sofisticate del Rinascimento. No, l'autore non sposa questa tesi, secondo la quale non ci furono invasioni, non ci fu violenza, ma ci fu una specie di integrazione dei barbari nell'impero. Lui contesta questa tesi, ci fu invece il trauma, ci furono le invasioni e furono soprattutto delle invasioni ostili, ci fu una grande sofferenza da parte del popolo dell'impero. Si trattò davvero, insomma, della fine di una civiltà che Ward Perkins contempla e presenta nelle manifestazioni della vita normale del romano medio. Secondo lo storico c'è un progetto culturale alla base di questa tesi. L'impero è ormai considerato in quanto tale sempre come qualcosa di negativo, ma soprattutto spinge a questa tesi la visione di un'Europa che cerca delle radici che non possono essere quelle del cristianesimo, perché questo urterebbe contro le tradizioni politiche laiciste di un'Europa liberale e di sinistra, così scrive. Questa tarda antichità che si sarebbe formata da un'armoniosa integrazione servirebbe a questo scopo, a inventare delle radici dell'Europa. Peccato però che questa fase non sia mai esistita, perché appunto, spiega Ward Perkins, la crisi fu dolorosa. E quindi di nuovo un libro di storia che ci riporta all'attualità. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubo. Abbiamo parlato del libro di Brian Ward Perkins sul crollo dell'impero romano, e l'analisi che lo storico inglese ha condotto si basa anche su alcune ricerche archeologiche di cui lo storico è specialista. Un'appassionante testimonianza delle sorprese che l'archeologia può riservare ancora oggi è contenuta nel libro di uno dei più importanti archeologi italiani che scava ancora a Roma, Andrea Carandini, autore con Daniela Bruno di La casa di Augusto, dai Lupercali al Natale, la terza, 286 pagine, 16 euro. Questo libro si ricollega in qualche misura a Costantino, di cui abbiamo parlato poco fa, perché spiega l'intreccio e la trasformazione di una festa e di un santuario pagano in una delle più importanti ricorrenze cristiane, appunto il Natale. Sotto il Palazzo di Augusto, secondo le ultime scoperte archeologiche, sarebbe stata individuata la sede del mitico Lupercale, che era uno dei punti più sacri per Roma e per la sua storia, sopra il quale sarebbe stata costruita una chiesa dedicata a Sant'Anastasia, che portava il nome della sorella dell'imperatore Costantino, per l'appunto. E questo imperatore avrebbe fatto celebrare per la prima volta in quella chiesa il Natale, appunto, il 25 dicembre del 326. E la chiesa fu scelta proprio perché sarebbe stata costruita sopra un luogo così sacro come il Lupercale, e quindi per cristianizzare un santuario pagano come il Lupercale. Spiega infatti Carandini, Natale del sito preurbano di Roma al tempo leggendario di Caco e di Fauno, Natale della città e dello Stato fondati da Romolo, Natale della metropoli dell'impero rifondati da Augusto e Natale del Natale di Cristo, patrocinato da Costantino, sembrano sovrapporsi in questa pendice palatina rivolta all'Aventino e al Circo. Ed è interessante nel libro ritrovare la storia di questi luoghi che possiamo ancora oggi andare a vedere e visitare, e l'intreccio delle vicende che, partendo da Augusto e sfociando appunto in Costantino, segnano uno dei luoghi più importanti della capitale imperiale. È un viaggio accompagnato da molte illustrazioni presenti nel testo che ci invogliano ad andare direttamente al Palatino e nella sottostante chiesa di Sant'Anastasia, per l'appunto. Un'altra figura mitica di imperatore, ma qua ci spostiamo ancora più avanti nel tempo, è quella di Federico II, e a lui è toccato uno strano destino, perché la sua memoria suscita reazioni molto contrastanti. È esaltato in Sicilia e in Puglia, dove fece costruire il famoso maniero a Castel del Monte. È sostanzialmente ignorato in Germania e guardato ancora con grande antipatia nell'Italia del Nord, che non ne dimentica le ambizioni per condizionare, ridurre o eliminare del tutto l'autonomia dei liberi comuni. Una spiegazione di questa triplice divergenza di opinioni la troviamo nel libro Lo strano caso di Federico II di Svevia, un mito medievale nella cultura di massa. È pubblicato da Palomar, 282 pagine, 18 euro. L'autore, che è un giornalista, Marco Brando, per rispondere a questa domanda sul perché siano sorte tante interpretazioni contraddittorie sulla stessa figura storica, non vuole tanto scrivere una biografia di Federico II, ma cerca di ricostruire le ragioni, appunto, delle immagini così contraddittorie contrastanti che si sono create su di lui. Sentiamo da queste righe, per esempio, perché ce l'hanno tanto con Federico II i Lombardi. Il nipote del Barbarossa, Federico II, divenuto imperatore, tentò nuovamente di ridurre all'obbedienza i comuni e di riorganizzare l'Italia secondo un suo piano generale, concepito in un ambito più vasto di dimensione europea. In una prima fase, nel 1220, aveva cercato di tranquillizzare le civitates, poi però passò alla diffidenza se non all'ostilità, ricusando il Trattato di Costanza, pur senza smettere di favorire le città a lui devote. Così nel 1226 era rinata la Lega Lombarda, che era già stata l'avversaria più irriducibile del Barbarossa. Nel 1231 Federico II convocò a Ravenna un'assemblea dei rappresentanti delle città per iniziare il riordinamento della Lombardia. Le città della Lega gli furono ostili. Federico le dichiarò colpevoli e nemiche, un vero anatema. Infuriò quindi una catena di lotte culminate nel 1237 con la sconfitta totale della Lega Lombarda a Corte Nuova, nei pressi di Bergamo. Com'era andata? Negli anni 30 del XIII secolo, Federico II si era trovato contro Milano, Brescia, Piacenza e altre ricche città dell'Italia settentrionale. Animate da spirito indipendista, avevano preferito, strumentalmente, stare dalla parte del Papa, perché era un nemico giurato dell'impero. Milano, per giunta, non aveva dimenticato il nonno Federico Barbarossa, che nel 1162 aveva fatto mettere a ferro e fuoco la loro città. A cominciare dal 1236, Federico II intraprese un'offensiva contro le città a lui ostili, in Veneto e Lombardia orientale. Il suo scopo? Farsi largo attraverso il Brennero e il nord-est della Valle Padana verso Milano, contro la quale scatenare le forze che egli aveva mobilitato in Germania. Lo svevo giunse a Verona il 16 agosto 1236, accompagnato da alcune migliaia di cavalieri tedeschi, e assieme al vicario imperiale Ezzelino da Romano si lanciò verso ovest, ottenendo buoni risultati militari a cavallo tra il 1236 e il 1237. Furono sconfitte Padova e Vicenza, che passarono nelle file imperiali, così come Treviso, Bergamo e Ferrara. Federico non riuscì però a riunire senza soluzione di continuità veronesi e cremonesi. Gli scontri nel 1237 raggiunsero il territorio di Brescia, dopo che tra agosto e settembre le forze imperiali avevano costretto alla resa Mantova. Un esercito guidato dai milanesi arrivò vicino a Brescia il 2 novembre per evitare la resa della città. Però, 25 giorni più tardi, fu obbligato a combattere a Corte Nuova, nei pressi di Bergamo, e fu distrutto. E a questo punto, in anticipo, il confettino. Abbiamo parlato dei miti pagani e vi propongo un libro di un altro grande storico francese scomparso da poco, Jean-Pierre Vernant. Il libro si intitola Pandora, la prima donna, è pubblicato da Einaudi, 50 pagine, 9 euro, tradotto da Irene Barboni e illustrato da Valente Taddei. Vernant fu uno dei principali studiosi della Grecia classica e Einaudi sta pubblicando alcuni suoi scritti nei quali racconta al nipote alcuni dei principali miti classici. Le letture però sono adatte a tutti per la chiarezza e la dottrina con le quali Vernant ci fa accostare a questi racconti che sono veramente alla base della cultura occidentale. Qui in particolare troviamo il mito di Prometeo che dona il fuoco agli uomini e quello di Pandora, appunto la prima donna creata da Efesto, che invece, aprendo il famigerato vaso, ne farà uscire tutti i mali del mondo. Sentiamo queste righe tratte dal libro di Vernant dedicate al momento centrale del mito di Prometeo. Anche il fuoco è nascosto. Quale fuoco? Il fuoco di Zeus. Zeus possiede un fuoco che è a volte rappresentato da un'aquila, a volte da un fulmine. È un fuoco eterno, inestinguibile. La sua forza non appari. Una volta era a disposizione anche degli uomini, ma questo ai tempi di Crono. Ora invece niente più fuoco, niente più pane che si fa da solo, nutrimento essenziale della vita umana. Che ne sarà degli uomini? Non possono mangiare neppure il cibo che Prometeo ha procurato loro, la carne cruda. Zeus scoppia a ridere pensando «stavolta li ho proprio conciati per le feste». Prometeo è molto furbo. Decide di risolvere la questione. Prende in mano lo stelo di un finocchio selvatico, una pianta particolare poiché, contrariamente a quello che avviene per gli alberi, il cui interno dove si trova la linfa è umido e l'esterno la scorza è secca, l'interno del finocchio è invece completamente secco, mentre l'esterno è verde e umido. Prometeo prende dunque un finocchio selvatico e sale al cielo. passa davanti a Zeus, che come al solito è disteso sul letto, e quando il dio guarda da un'altra parte, il titano si impadronisce di un seme di fuoco e lo mette sulla cima del suo finocchio. Il fuoco si propaga all'interno della pianta, senza che lo si possa vedere da fuori. Prometeo passa una seconda volta davanti a Zeus, arriva dagli uomini e dona loro il seme del fuoco. Con quello gli uomini accendono le loro cucine, cuociono la carne, si riscaldano le membra e il cuore. E Zeus, dall'alto dell'Olimpo, guarda e all'improvviso vede i fuochi che brillano laggiù, nelle case degli uomini. La sua rabbia esplode, il furore è totale. Agli appassionati di miti classici o semplicemente a chi vuole approfondire la conoscenza della classicità e dei miti sui quali si fonda la letteratura e l'arte classica, segnalo il libro di un altro grande storico, Pierre Grimal, di cui Newton Compton pubblica un classico, La mitologia greca, 126 pagine, 7 euro, tradotto da Milva Faccia. Il mito greco, osserva l'autore, è unico rispetto ai grandi cicli leggendari di tutte le altre civiltà, perché partecipa di varie nature e significato ed è affine all'arte in ogni sua creazione. Per esempio la psicologia ha restituito una grande importanza e centralità ai miti classici, spiega infatti l'autore, che la mitologia sarebbe un vero e proprio subcosciente dei popoli antichi in cui venivano raffigurate le loro aspirazioni, terrori, tutto ciò che la morale cosciente rifiutava con orrore. E infatti nei miti, scrive, vi è più di un'avventura immorale, incesti, omicidi, quanto basta per soddisfare il più intrepido dei discepoli di Freud. E qua li troviamo tutti descritti e illustrati, questi miti divisi per cicli, e questa guida dunque diventa un invito a ritrovare le origini della nostra civiltà, della nostra cultura. Prima di salutarci vi segnalo un appuntamento cinematografico e il film d'animazione Walzer con Bashir di Ari Folman, che possiamo trovare anche in un'edizione cartacea. È uscito infatti un libro in un adattamento a graphic novel dello stesso titolo, è pubblicato da Rizzoli, 144 pagine, 18 euro, tradotto da Isabella Zani. L'illustratore è David Poloski, il quale spiega in un'intervista finale come sia difficile, quasi innaturale, trasformare in un libro, sia pure a fumetti, un film animato, visto che gli espedienti narrativi sono diversi. Ma direi che la prova è riuscita, perché anche il libro riesce a trasmettere il senso di dolorosa ricerca del protagonista che scava nel proprio passato per recuperare la memoria rimossa della presenza, se non della partecipazione alla strage in Libano, dei campi di Sabra e Shatila. Un altro appuntamento che vi segnalo è quello a Milano, a Forma, dove da poco si è aperta la mostra dedicata al grande fotografo Mario Giacomelli, intitolata La figura nera aspetta il bianco. La mostra sarà aperta fino al 22 marzo 2009. E con questo ringrazio Laura Marchesi, Daniele Casagrande, Vittoria Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Passo la linea adesso a Respiro di Laura Bettini. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.